Spacco il locale a metà. Sono nuovi sperimentali, solo suoni sperimentali, dalle elementari che mi sento chiuso nei penitenziari. Poi bevo più dei tifosi del Glasgow. Mischio la vacca liscia col tabasco. Adesso in after dal giorno in cui nasco. Vita spericolata altro che Vasco. Stiamo volando. Scusami, ho perso il conto di quante canne stiamo rollando. Ormai da tempo vi stiamo doppiando. Corro veloce Cristiano Ronaldo. Sai che ho vinto solo con i mixtape. Strisciando a terra come Solid Snake. Delle mie tracce ora fanno i remake. Tu ancora fatichi a chiudere i take. Rap vender da sempre. L'incubo di ogni bartender. Invoco le maniche, Mark Lander. Tu fai un po' di tutto, transgender. Non ho la collana col ciondolo. Supero i limiti che mi si impongono. Dillo la verità in faccia ai più falsi del mondo. Bro, solo per vedere che mi rispondono. Da sempre sento dove andate con quelle facce. Soltanto storie, marce, canne nelle tracce. Io spacco il locale a metà. Se vuoi il disagio nella tua città, la gente lo sa. Detto, fatto. Detto, fatto. Vomito in tutti i locali, mixo la vodka e Campari, entro e mi riempiono i cali, esco con quelli coi gami, scenari classici, balliamo spastici coi passi di Alici. Dentro fa caldo ma in pista da ballo c'è gente che c'ha lì. Canto con la faccia tosta, spacco non lo faccio apposta. Poco quotato ma vinto la corsa a cavallo da 15 volte la posta. Detto fatto, dentro il palco, metto il guanto, un certo tatto. Finito un drink, cerco un altro, entro e tratto per contratto. Cosa pensavi che fosse, che ti insegnassi le mosse? Ma partite sti le ho tutte rimosse, sto attento sui colpi di tosse. Suono d'impatto, con gli occhi rossi di guato, cannoni grossi di parto, tutti commossi d'incanto, vedete i mostri come Tim Burton. Da sempre sento dove andate con quelle facce. Soltanto storie, marce, canne nelle tracce. Io spacco il locale a metà. Se vuoi il disagio nella tua città, la gente lo sa. Detto, fatto. Voglio solo erba come un diplodoco. Se non me la porti giuro mi do fuoco. Delle tue certezze mi fido poco. Brucio più vite che in un videogioco. Nei locali VIP più cafoni. Non ci riconoscono i buttafuori. Noi non dormiamo sugli allori. Detto, fatto. Da sempre sento dove andate con quelle facce. Soltanto storie, marce, canne nelle tracce. Io spacco il locale a metà. Se vuoi il disagio nella tua città, la gente lo sa. Detto, fatto. Spacco il locale a metà. Se vuoi il disagio nella tua città, la gente lo sa. Detto.